Siamo in compagnia oggi di Piazza Grande, che diciamo ha messo il suo timbro su questa grande e bellissima iniziativa. Ma ce l'hanno messo senza che ce ne accorgessimo, nel senso che è nato tutto quando sui giornali è uscito che sembrava dovesse aprire un ristorante proprio col nome di Piazza Grande in questa piazza, e non eravamo noi, per cui abbiamo contattato le persone che lo volevano aprire e così abbiamo conosciuto Giovanni di persona, e da subito è nata insomma un'intesa nel cercare di costruire, di portare avanti il messaggio della canzone di Piazza Grande, che è quello che facciamo noi e quello che per quel che ci riguarda può far chiunque, per cui è che è un messaggio di attenzione verso le persone senza dimora e in generale di attenzione al tema delle disuguaglianze, per cui la primissima collaborazione che ci è venuta in mente è stata legata all'arredamento, perché noi abbiamo 2000 metri quadri pieni di mobili che ci donano cittadini e cittadine, è ancora in buono stato ma non vogliono che diventino rifiuti, ed è tutto nato come attività per appunto creare delle occasioni di lavoro per le persone senza dimora, o la legge dice svantaggiate, noi ci piace dire emarginate, e quindi da lì abbiamo iniziato con questo percorso che speriamo poi vada avanti sempre di più anche sul fronte degli inserimenti lavorativi o anche sul fronte delle campagne di sensibilizzazione, ecco, avere un buon alleato per portare avanti certi temi qua in centro. Una buona vetrina anche. Una bella vetrina, sì sì. È interessante perché ogni arredo che viene acquistato da una onlus, da un ente non profit, noi in questo caso siamo proprio una cooperativa sociale per essere attività commerciale, è tutto utile che non va un interesse, come dire, privato di un singolo o di un gruppo di azionisti, no? Sono dei soldi che sì, si generano, ma poi noi possiamo usare per i nostri scopi sociali. Quello che possiamo fare è finanziare più progetti, grazie al mercatino, alla Leonarda, che c'è in via San Leonardo abbiamo potuto sperimentare Housing First. Adesso Housing First è uno dei più grandi d'Italia e gestiamo in generale 106 appartamenti, e questa cosa non la facciamo noi, cioè la fanno le persone che vanno alla Leonarda, che prendono le cose al mercato, che fanno una scelta consapevole, come dire, di indirizzare il proprio acquisto in una non profit. Ce ne sono tante, non siamo la migliore per forza, però è importante sostenere un tipo di economia che per sua natura tende a contrastare l'aumento delle disuguaglianze. Assolutamente, assolutamente un bellissimo, oltre che messaggio anche attività, e questo è anche secondo me molto bolognese. Sì, sì, sì, fantastico, infatti quando è successa questa cosa mi ha detto boh, chissà come cosa ci dirà, come, e invece è stato facilissimo mettersi d'accordo, incontrarsi, anche proprio ragionare intorno a questo discorso di Piazza Grande mettendo insieme punti di vista diversi. Questa è una roba che succede a Bologna, che le diversità non sono un problema da eliminare perché solo il proprio punto di vista è quello giusto, ma sono anzi delle occasioni per diventare, per crescere, per far fiorire una città, e questa cosa qua la confermiamo.